1, 2, 3, 4. Ma tu hai attaccato all'inizio della battuta o dopo due click del metronomo? Cioè io devo contare in base a quello che sento o in base a quello No, che ti ho vedo contato dal all'inizio monitor? 4 che erano 1, 2, 3, 4, cioè proprio sul tempo. Sì, però c'è una barra No, sullo no, tu solo in base a schermo. quello che vedi da me. Io il monitor l'ho chiuso proprio, non lo sto guardando. Ah, ok. Riprova. Sì, lo so, l'ho vista, ma tu non ci fare caso adesso a quella. Ok, quindi al terzo do mi, ok? Ok, Il problema è nel che se mio non cambia la mondo tu hai struttura. attaccato dopo 4 giri, mentre io ti avevo detto di attaccare dopo 2, quindi siamo praticamente effettivamente due misure indietro. No, 4, 4 battute proprio, perché un giro è di 4 battute. Quindi se in teoria tu conti, devi contare due volte una battuta, poi Sì, scusami, io dovremmo per due andare misure intendevo insieme. due giri. Adesso provo io a contare due volte. Quindi conto 8 misure. Tu però, dopo le prime 4 attacchi. E vediamo che cazzo c'è. Eh no, ma ti arrivo in ritardo io la stessa cosa. No, non succede, non possiamo mai essere a tempo, perché quello che arriva qui non è quando lo suoni tu, non è possibile proprio. E quindi cazzi. Peccato perché era carino. Però almeno si può suonare a tempo, questo è divertente. Sì, questo sì.